fiducia, serenità, tranquillità, gioia. Respirate così per un minuto. Poi aprite gli occhi e tornate alle vostre attività. Ma ricordatevi del vostro respiro e ricordate di mantenere la fronte rilassata. Così saremo pronti per il terzo consiglio yoga, quello di domani. Ieri siamo partiti dal corpo, come ci ricordava Nicoletta. Oggi abbiamo utilizzato il respiro. Siamo quindi pronti per impiegare la mente. Lo faremo domani con una visualizzazione creativa. E ricordatevi, intanto ringraziamo Daniele Belloni che torna a trovarci domani. Potete trovare tutte le indicazioni sulla nostra pagina Facebook. Ricordate, mettete un promemoria e continuate a farlo. Creiamo un gruppo, ci ritroviamo ogni giorno per un'indicazione e poi cerchiamo durante la giornata, nel corso di una giornata piena di affanni, di impegni, di ritagliarci questo piccolo spazio per noi, di seguire le indicazioni di Daniele Belloni e venerdì tireremo un po' le somme, quindi è proprio un percorso che stiamo facendo insieme. Grazie Daniele, noi ci sentiamo domani. Grazie Nicoletta, a domani, ciao. A domani. Allora, io vi ho fatto una domanda e avrei avuto una risposta, ma non ho l'ospite che ci dà la risposta. Cosa devo fare? Mi stresso? No, respiro, provo a fare l'esercizio di Daniele Belloni. Mi dispiace, ma il nostro ospite sono certa che verrà in collegamento domani e quindi commesso o manager naturalmente terremo conto anche degli ascoltatori che sono intervenuti, perché molti di voi hanno chiamato l'800240024 e quindi verranno ricontattati. Professor Negrini, 30 secondi per dire a tutti buona schiena allora. Sì. Buona schiena e ricordiamoci di muoverci, movimento, movimento, movimento. Che movimento e buon senso, buon senso e movimento. Professor Negrini, grazie, grazie a voi, scusate per l'intoppo, intanto noi ci troviamo domani. Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi, preziosa, in redazione. Grazie a voi, a domani. Essere e benessere.